governo spagnolo affronta il costo dei licenziamenti, affronta, come dice, i contratti a termine. In realtà, se guardiamo quello che dice l'OCSE, che non è sospetto, sul grado di flessibilità dei vari sistemi, noi l'Italia, dopo le riforme fatte da noi e da Biagi, è mediamente un sistema flessibile, più della Germania e più della Spagna. Qual è il punto dolente nel nostro sistema? È il famoso articolo 18. Per il resto, il grado medio di flessibilità del nostro mercato è alto, persino troppo. Per esempio, questa congerie di forme contrattuali, forse, vanno, anzi senza forse, vanno semplificate.